Capitolo 57. La sera che Fred si recò alla casa del pastore di Lowick, aveva cominciato ad accorgersi che questo è un mondo in cui persino un giovanotto vigoroso deve talvolta camminare, in mancanza di un cavallo che lo trasporti. Si incamminò alle 5 e lungo la strada passò da Mrs. Gert, desiderando assicurarsi che lei accettasse di buon grado i loro nuovi rapporti. Trovò il gruppo familiare, cani e gatti compresi, sotto il grande melo dell'orto. Per Mrs. Gerth era un giorno di festa, perché il figlio maggiore, Christy, sua gioia e suo orgoglio particolari, era giunto a casa per una breve vacanza. Christy, che considerava la cosa più gradevole del mondo fare il tutore, studiare tutte le letterature ed essere un porson redivivo, e che era una critica personificata verso il povero Fred, una sorta di lezione pratica datagli dalla madre istruttiva. Christy stesso, un'edizione mascolina, dalla fronte squadrata e dalle spalle larghe della madre, alto poco più della spalla di Fred, cosa che rendeva più arduo che fosse ritenuto superiore, era sempre della maggior semplicità possibile e non dava più importanza alla versione di Fred per gli studi dotti di quanto non ne desse a quella di una giraffa, desiderando a sua volta di poter essere alto come lui. Ora stava disteso a terra, accanto alla sedia della madre, col proprio cappello di paglia posato del tutto sugli occhi, mentre Jim, dall'altra parte, stava leggendo ad alta voce una pagina di quello scrittore amato che ha giocato un ruolo fondamentale nella felicità di molte giovani vite. L'opera era Ivanhoe, e Jim era alle prese con la grande scena del tiro all'arco durante il torneo, ma subiva molte interruzioni da parte di Ben, che era andato a prendere il suo vecchio arco con le frecce e si stava rendendo spaventosamente odioso. Pensava Letty, chiedendo a tutti i presenti di osservare i suoi tiri a casaccio, cosa che nessuno desiderava fare tranne Brownie, il vivace ma probabilmente superficiale cane bastardo, mentre il Terranova grigio, disteso al sole, osservava con la spenta indifferenza dell'estrema vecchiaia. Letty stessa, mostrando dalla bocca e dal grembiule alcuni leggeri segni che indicavano che aveva contribuito alla raccolta delle ciliegie che erano posate in un mucchio corallino sul tavolo da tè, adesso stava seduta sull'erba, intenta ad ascoltare la lettura ad occhi spalancati. Ma all'arrivo di Fred Vincey, il centro dell'interesse si spostò per tutti. Allorché, sedutosi su uno sgabello, disse di essere diretto alla casa del parroco di Lowick. Ben, che aveva gettato a terra il proprio arco e aveva invece raccolto un riluttante gattino, si mise a cavallo della gamba distesa di Fred e disse: «Prendimi con te!» «Oh, anche me!» fece Letty. «Non puoi tenere dietro al passo di Fred al mio», disse Ben. «Sì che posso! Mamma, ti prego, di che devo andare?» insistette Letty, che si opponeva spesso a chi la svalutava perché femmina. «Io resto con Christy», osservò Jim, come a dire che l'aveva vinta su quei sempliciotti. Al che Letty si portò la mano alla testa e guardò con gelosa indecisione prima l'uno e poi l'altro. «Andiamo tutti a trovare Mary», disse Christy allargando le braccia. «No, mio caro figliolo, non dobbiamo andare in massa alla casa del pastore. E quel tuo vecchio vestito a scacchi non andrebbe bene. Inoltre tuo padre arriverà a casa. Dobbiamo lasciare andare Fred da solo. Potrà dire a Mary che sei qui e lei verrà domani». Christy lanciò un'occhiata alle proprie ginocchia consunte e poi agli stupendi pantaloni bianchi di Fred. Certo, il vestito di Fred faceva pensare al vantaggio di un'università inglese ed egli aveva un modo aggraziato anche nell'apparire accaldato e nello spingersi indietro i capelli col fazzoletto. «Bambini, via!» disse Mrs. Gert. «Fa troppo caldo per fare ressa attorno ai vostri amici. Prendetevi vostro fratello e mostrategli i conigli». Il maggiore capì e immediatamente condusse via i bambini. Fred capì che Mrs. Gert desiderava offrirgli l'occasione di dire quello che voleva, ma egli riuscì solo a cominciare osservando: «Come potete essere felice con Chris a casa?» «Sì, è arrivato prima di quanto mi aspettassi. È sceso dalla diligenza alle 9, proprio subito dopo che suo padre era uscito. Non vedo l'ora che Caleb venga e senta che progressi stupendi sta facendo Christy. Si è pagato le spese dell'ultimo anno dando delle lezioni e continuando a studiare sodo nello stesso tempo. Spera di diventare tutore di un privato fra poco e di andare all'estero». «È un gran bravo ragazzo», disse Fred, per il quale queste allegre verità avevano il sapore della medicina, «e non procura fastidio a nessuno». Dopo una breve pausa soggiunse: «Ma temo che penserete che io procurerò un sacco di fastidi a Mr. Gerth». «A Caleb piacciono i fastidi. È uno di quegli uomini che fanno sempre più di quello che si sarebbe pensato di chiedere loro», rispose Mrs. Gerth. Stava facendo la maglia e poteva guardare Fred oppure no, come le pareva, Il che è sempre un vantaggio quando uno è propenso a caricare le proprie parole di un significato salutare. E sebbene Mrs. Gers intendesse mantenere un doveroso riservo, tuttavia voleva dire qualcosa che non avrebbe fatto altro che bene a Fred. «So che mi considerate assai meritevole, Mrs. Gert, e a buon motivo», disse Fred, il cui morale si sollevò un poco a rendersi conto di una certa qual disposizione a fargli una ramanzina. Se del caso che mi sia comportato proprio nel modo peggiore con le persone da cui non posso fare a meno di desiderare il massimo, ma se Mr. Gert e Mr. Fairbrother non hanno disperato di me, non vedo perché dovrei farlo io. Fred pensò fosse bene mettere davanti a Mrs. Gert questi due esempi maschili. Certamente, lei disse con enfasi crescente, un giovane al quale si sono dedicate due persone anziane del genere sarebbe davvero colpevole se si buttasse via e rendesse vani i loro sacrifici. Fred si stupì un poco di queste parole forti, ma disse solo: Spero che non sia così per me, Mrs. Gert, dato che non sono un po' incoraggiato a credere di poter conquistare Mary. Mr. Gert ve ne ha parlato? Ve ne siete sorpresa, vero? Fred concluse, riferendosi innocentemente solo al proprio affetto, in quanto era probabile che fosse abbastanza palese. Non sorpresa che Mary ti abbia incoraggiato? Ribatté Mrs. Gers, la quale era dell'avviso che avrebbe fatto bene a Fred una maggiore consapevolezza del fatto che i parenti di Mary non avrebbero assolutamente potuto desiderare una cosa simile, checché ne pensassero i Vincy. Sì, confesso che sono rimasta sorpresa. Lei non mi ha mai dato nessun, neppure la minima parola quando le ho parlato io, disse Fred, desideroso di difendere Mary. Ma quando ho chiesto a Mr. Fairbrother di parlare a nome mio, lei gli ha consentito di riferirmi che avevo una speranza. A carica di ammonimenti che aveva cominciato ad agitarsi nel petto di Mrs. Gert non si era ancora sfogata. Era una provocazione un po' troppo forte anche per il suo autocontrollo. Che questo raggiante giovanotto prosperasse sulle delusioni di persone più tristi e più sagge, mangiandosi un usignolo in quattro bocconi e senza farci caso, e che nonostante tutto la famiglia di lui credesse che fosse la sua ad aver bisogno di questo bel tomo. E l'irritazione le era ribollita dentro, ancora con maggiore intensità, perché l'aveva totalmente repressa nei riguardi del marito. Le mogli esemplari talvolta trovano dei capri espiatori in questo modo. A questo punto disse con un'energica risolutezza: Hai commesso un grande sbaglio, Fred, a chiedere a Mr. Fairbrother di parlare per te. Davvero? Disse Fred, arrossendo all'istante. Era allarmato, ma non sapeva come interpretare ciò che Mrs. Gers intendeva dire e soggiunse in tono di scusa. Mr. Fairbrother c'è sempre stato così amico e Mary lo sapevo, lo avrebbe ascoltato con serietà e lui è stato prontissimo a incaricarsene. Sì, i giovani di solito sono ciechi a tutto tranne i loro desideri e di rado immaginano quanto quei desideri costino agli altri, disse Mrs. Gers. Non intendeva spingersi oltre questo salutare principio generale e riversò la propria indignazione sul tessuto pettinato che dipanò inutilmente, aggrottando le ciglia con un'aria maestosa. Non riesco a capire come potesse costare dolore a Mr. Fairbrother, disse Fred, il quale tuttavia si rese conto che nella sua mente cominciavano a prendere forma delle idee sorprendenti. Precisamente non riesce a capirlo, disse Mrs. Gert, pronunciando le parole con la maggiore chiarezza possibile. Per un attimo Fred guardò all'orizzonte con ansiosa costernazione e poi, voltatosi con un movimento rapido, disse quasi bruscamente: Volete dire, Mrs. Gert, che Mr. Fairbrother era innamorato di Mary? E se fosse così? Fred? Penso che tu sia l'ultimo che se ne dovrebbe sorprendere, ribatté Mrs. Gert, posando i ferri e la maglia accanto a sé e incrociando le braccia. Il fatto che si togliesse di mano il lavoro era un segno inconsueto di turbamento. In effetti i suoi sentimenti erano divisi fra la soddisfazione di avere punito Fred e il senso di essere andata troppo in là. Fred afferrò bastone e cappello e si alzò in fretta. Allora pensate che io sia d'impiccio a lui e anche a Mary? E gli disse in un tono che sembrava richiedere una risposta. Mrs. Gerst non riuscì a rispondere immediatamente. Si era messa nella sgradevole posizione di venire invitata a dire ciò che pensava realmente. Eppure vi erano valide ragioni per nascondere ciò che sapeva. E la mortificava in modo particolare la consapevolezza di aver detto troppo. Inoltre, Fred si era mostrato elettrizzato in misura inattesa ed ora aggiunse: Mr. Gert sembrava contento che Mary fosse affezionata a me. Non avrebbe potuto sapere nulla di tutto questo. Mrs. Gertz, a questo accenno al marito, provò un dolore acuto perché il timore che Caleb potesse considerarla nel torto non era facilmente sopportabile. Così rispose col desiderio di soffocare conseguenze non volute. Ho parlato solo per illazione. Non ho idea se Mary sappia qualcosa della faccenda. Ma esitò a chiedergli che tenesse nel massimo segreto un argomento che lei stessa aveva tirato in ballo quando non era necessario, non essendo abituata a umiliarsi in quel modo. E mentre esitava sotto il melo dove si trovavano le cose del tè, c'era già un precipitarsi di conseguenze non volute. Ben attraversando a balzi il prato con Brownie alle calcagna, alla vista del gattino che trascinava la maglia ai ferri con un filo di lana che si allungava, lanciò un grido e batté le mani. Brownie abbaiò. Il gattino disperato balzò sul tavolino del tè e rovesciò il latte, poi saltò giù di nuovo e si trascinò dietro la metà delle ciliegie e ben afferrata la punta del calzino per metà finita, la infilò sulla testa del gattino, facendolo infuriare ancora di più, mentre Letty, arrivando, si diede a gridare, rivolta alla madre, contro questa crudeltà. Era una storia piena di avvenimenti sensazionali, come la filastrocca. Questa è la casa che Jack ha costruito. Mrs. Gertz fu obbligata a intervenire, gli altri figli comparvero e la conversazione con Fred ebbe termine. Questi se ne andò prima che poté e Mrs. Gertz poté solo accennare una certa ritrattazione della propria severità dicendo «Dio ti benedica» quando gli diede la mano. Aveva la sgradevole consapevolezza di essere stata sul punto di parlare proprio come una di quelle donne stupide che prima aprono bocca e poi implorano il silenzio. Ma lei non aveva implorato il silenzio e per evitare il biasimo di Caleb decise di biasimarsi da sola e riferirgli tutto quella sera stessa. Era curioso quale tribunale tremendo fosse per lei quello del mite Caleb, ogni qualvolta egli lo erigeva. Ma intendeva fargli notare che quella rivelazione avrebbe potuto fare un gran bene a Fred Vincy. Senza dubbio aveva un forte effetto su di lui mentre camminava diretto a Lowick. La natura vanitosa e ottimista di Fred forse non aveva mai ricevuto una ferita tanto profonda come questo suggerimento che se lui non ci fosse stato, Mary avrebbe potuto fare un matrimonio eccellente. Inoltre era indispettito per essere stato quello che chiamava un tanghero così stupido da chiedere l'intervento di Mr. Fairbrother. Ma non era nella natura di un innamorato, non lo era in quella di Fred, che la nuova ansia suscitata in merito ai sentimenti di Mary non superasse ogni altra. Nonostante la sua fiducia nella generosità di Mr. Fairbrother, nonostante ciò che Mary gli aveva detto, Fred non poteva fare a meno di avvertire di avere un rivale. Era una consapevolezza nuova ed egli si opponeva ad essa con tutte le sue forze, non essendo minimamente pronto a rinunciare a Mary per il bene di lei. Bensì era pronto a combattere per lei contro qualsiasi uomo. Ma la battaglia con Mr. Fairbrother doveva essere di tipo metaforico, cosa assai più difficile per lui di quella di tipo fisico. Certamente questa esperienza era per Fred una lezione non certo meno amara della delusione per il testamento dello zio. Il ferro non gli era penetrato nel cuore, ma aveva già cominciato a immaginare quanto tagliente sarebbe stata la lama. Neppure per una volta passò per la mente a Fred che Mrs. Gersi potesse sbagliare riguardo a Mr. Fairbrother, ma sospettò che si ingannasse su Mary. Ultimamente Mary si era fermata alla casa del pastore e poteva darsi che la madre sapesse ben poco di ciò che le passava per la mente. Non si sentì maggiormente rassicurato quando la trovò tutta allegra con le tre donne nel salotto. Stavano discutendo animatamente di un qualche argomento che fu lasciato cadere quando egli entrò e Mary stava copiando le etichette da un mucchio di cassetti con una calligrafia minuta in cui era esperta. Mr. Fairbrother era da qualche parte nel villaggio e le tre donne erano all'oscuro del particolare rapporto di Fred con Mary. Era impossibile per entrambi proporre di fare un giro in giardino e Fred presagì che sarebbe dovuto andarsene senza una parola a quattro occhi. Dapprima le comunicò che era arrivato Christy e poi che aveva cominciato a lavorare con suo padre e lo confortò alla vista che quest'ultima notizia la toccò intimamente. Lei disse in fretta: «Sono così felice!» e poi si chinò su ciò che stava scrivendo per non fare vedere a nessuno il proprio volto. Ma ecco un argomento che Mrs. Fairbrother non poteva lasciare passare senza dire la sua. «Non vorrete dirmi, mia cara Miss Garth, che siete contenta che un giovanotto rinunci a farsi prete?» cosa per cui era stato istruito. Volete solo dire che stando così le cose siete felice che lavori sotto la direzione di un uomo eccellente come vostro padre? No, veramente, Mrs. Fairbrother, sono felice di tutte e due le cose, temo, disse Mary sbarazzandosi con abilità di una lacrima ribelle. Ho una mentalità terribilmente secolare. Non mi è mai stato simpatico nessun prete, tranne il parroco di Wakefield e Mr. Fairbrother. Ma perché, mia cara? Disse Mrs. Fairbrother abbassando i suoi grossi ferri da calza in legno e guardando Mary. Avete sempre delle buone ragioni per le vostre opinioni, ma questa mi stupisce. Naturalmente metto fuori discussione tutti coloro che predicano una nuova dottrina. Ma perché vi devono essere antipatici i preti? Oh, Dio mio, disse Mary col volto che le si illuminava di allegria, mentre sembrò pensare un momento. Non mi piacciono i loro fazzoletti da collo. Ehi, ma allora non vi piace quello di Camden? Disse Miss Winifred in preda ad una certa ansietà. Sì, quello sì, disse Mary. Non mi piacciono i fazzoletti da collo degli altri preti, perché sono loro che li portano. Che grosso rompicapo, disse Miss Noble, pensando che il proprio cervello non fosse probabilmente all'altezza. Mia cara, state scherzando. Dovrete avere ragioni più valide di queste per disprezzare una classe così rispettabile di uomini, disse Mrs. Fairbrother con aria maestosa. Miss Garth ha delle idee così severe su ciò che la gente dovrebbe essere, che è difficile soddisfarla, disse Fred. Beh, almeno sono contenta che faccia un'eccezione in favore di mio figlio, disse la vecchia signora. Mary si stava chiedendo perché Fred avesse un tono così irritato quando Mr. Fairbrother entrò e dovette stare ad ascoltare la notizia sul lavoro di Fred alle dipendenze di Mr. Garth. Alla fine disse con tranquilla soddisfazione: Così va bene. Poi si spiegò per lodare le etichette di Mary e la sua calligrafia. Fred si sentì terribilmente geloso. Naturalmente era lieto che Mr. Fairbrother fosse una persona così stimabile, ma avrebbe voluto che fosse stato brutto e grasso come sono a volte gli uomini di 40 anni. Era chiaro come sarebbe finita dal momento che Mary poneva apertamente Fairbrother su tutti gli altri e queste donne stavano evidentemente tutte corteggiando la relazione. Si sentiva certo che non avrebbe avuto nessuna occasione di parlare con Mary quando Mr. Fairbrother disse: Fred, aiutami a riportare questi cassetti nel mio studio. Non hai visto il mio bello studio nuovo? Vi prego, venite anche voi, Miss Garth. Voglio che vediate un ragno stupendo che ho trovato questa mattina. Mary capì subito l'intenzione del parroco. Da quella memorabile sera egli non si era mai discostato dalla sua vecchia gentilezza pastorale nei suoi confronti e quel dubbio e quello stupore momentanei si erano completamente sopiti. Mary era abituata a pensare in termini molto rigorosi a ciò che era probabile e se un pensiero le lusingava la vanità, si sentiva ammonita a liquidarlo come ridicolo, avendo fatto pratica per tempo in simili rinunce. Era come aveva previsto quando ebbe chiesto a Fred di ammirare i mobili dello studio e a lei di ammirare il ragno. Mr. Fairbrother disse: Aspettate qui un paio di minuti, vado a cercare un'incisione che Fred è alta abbastanza per appendere. Sono di ritorno fra pochi istanti. E poi uscì. Ciononostante, la prima parola che Fred disse a Mary fu: È inutile, qualunque cosa faccia, Mary, finirai certamente per sposare Fairbrother. Nel suo tono c'era una certa ira. Cosa vuoi dire, Fred? Esclamò Mary con aria indignata, arrossendo intensamente e sorpresa dalla propria prontezza nel rispondere. È impossibile che tu non lo capisca chiaramente, tu che capisci tutto. Capisco solo che ti stai comportando molto male, Fred, nel parlare così di Mr. Fairbrother, dopo che ha difeso la tua casa in ogni modo. Come ti può essere venuta una simile idea? Fred era piuttosto sornione, nonostante la sua irritazione. Se Mary non aveva davvero nessun sospetto, era inutile riferirle ciò che Mrs. Garth aveva detto. È una cosa naturale, ribatté. Quando vedi continuamente un uomo che mi supera in tutto e che tu metti al di sopra di tutti, non posso avere alcuna possibilità. Sei molto ingrato, Fred, disse Mary. Vorrei non aver mai detto a Mr. Fairbrother che ti volevo bene. No, non sono ingrato. Sarei la persona più felice del mondo se non fosse per questo. Ho detto tutto a tuo padre e lui è stato molto gentile. Mi ha trattato come se fossi suo figlio. Se non fosse per questo, potrei andare a lavorare di buona volontà e a scrivere e tutto il resto. Per questo cosa? Disse Mary, immaginando che a questo punto fosse stato detto o fatto qualcosa di specifico. Questa terribile certezza che sarò messo fuori gioco da Mr. Fairbrother. Mary fu acquietata dal desiderio di ridere. Fred, disse guardandosi attorno per afferrare il suo sguardo che egli aveva scontrosamente distolto da lei. Sei troppo deliziosamente ridicolo. Se non fossi un così incantevole sempliciotto, che tentazione sarebbe questa per fare la civetta cattiva? E farti supporre che qualcun altro oltre a te mi fa la corte. Ti piaccio davvero più di tutti, Mary, disse Fred, rivolgendole uno sguardo pieno di affetto e cercando di afferrarle la mano. In questo momento non mi piaci per niente, disse Mary, retrocedendo e mettendosi le mani dietro la schiena. Ho solo detto che nessun altro uomo mi ha mai corteggiato tranne te, e che è fuori questione che un uomo assai saggio possa mai farlo, concluse allegramente. Vorrei che mi dicessi che non potresti assolutamente mai pensare a lui, disse Fred. Non osare mai più parlare di questo davanti a me, Fred, disse Mary diventando di nuovo seria. Non so se sia più stupido e ingrato da parte tua non capire che Mr. Fairbrother ci ha lasciato da soli allo scopo di parlare liberamente. Mi delude il fatto che tu sia così cieco al suo sentimento delicato. Non ci fu tempo di dire altro prima che Mr. Fairbrother tornasse con l'incisione e Fred dovette far ritorno nel salotto, ancora con un geloso timore in cuore, ma tuttavia con il conforto delle parole e dei modi di Mary. Il risultato della conversazione, tutto sommato, fu più doloroso per Mary. Inevitabilmente le sue attenzioni avevano assunto un nuovo atteggiamento e intravedeva la possibilità di nuove interpretazioni. Si trovava in una posizione in cui le sembrava di mancare di rispetto a Mr. Fairbrother, e ciò riguardo a un uomo assai onorato è sempre pericoloso per la fermezza di una donna riconoscente. Avere una buona ragione per tornare a casa il giorno successivo fu un sollievo, perché Mary desiderava seriamente che fosse per sempre chiaro che amava Fred più di tutti. Quando un tenero affetto si è accumulato in noi per molti anni, l'idea che potremmo accettare qualsiasi cosa in cambio di esso sembra sminuire la nostra vita. E possiamo mettere una sentinella a guardia dei nostri affetti e della nostra costanza, come possiamo metterla a guardia di altri tesori. Fred ha perduto tutte le altre speranze. Deve conservare questa, si disse Mary con un sorriso che le arricciò le labbra. Era impossibile scacciare visioni fugaci di un altro genere, nuove dignità e un valore riconosciuto di cui aveva spesso avvertito l'assenza. Ma queste cose, con Fred al di fuori di esse, Fred, abbandonato e triste per la mancanza di lei, non riuscivano mai a tentare il suo pensiero cosciente.